fa col culo al grillo, ma anche qua già si fa sentire in 10, in 11, capito? Va bene città, secondo dove sei, siccome direttivo, poco fa ho sentito Sandro, mi ha sentito Sandro da Monti, quindi figurati. Come direttivo, ti è passato verso Monti, per dire, lì arriva a livello direzionale. È una polarizzazione orizzontale, capito? In orizzontale però c'hai quattro lati che lavorano, lavora sia davanti che dietro e a due angoli dei dipoli questo. È un quadro in banda, quindi usa tutti e quattro i lati per trasmettere. E allora non è più direzionale, sì. Se tutti e quattro lati trasmette come le altre antenne. No, vabbè, la verticale trasmette verticalmente, questa è un orizzontale, questo è un lobo di radiazione a quattro lati liberi, capito? È direttivo sul punto in cui tu ce l'hai davanti, però trasmette sia davanti, dietro e le due punte. È un lobo di radiazione a quattro lati, capito? Me l'ha spiegato Marco, io neanche ne sapevo. Ecco, avanti! Avanti, ecco! Ciao Claudio, buonasera a doppio room. Torino! No, siete già nel Torino. Lo ascolto, l'ho salutato, non so se lui mi ascolta, comunque l'ho salutato, ho salutato a te, ho salutato a Gianni. A me il Torino, lo vediamo. No, sta va bene, sto rientrando lì, adesso la porto a torre, che stavo lavorando perché c'era un'urgenza di lavoro e allora bisogna lavorare anche il sabato, sacrificarci. Anche io sto tornando ancora da Porto Torre, sto lì. E la lavoro fino adesso anch'io, dai, non c'è problema. Tutti gli si muscioli di mare, anzi che felicità sempre. Mi hanno trasferito perché giovedì stavo lavorando a Olbia. Poi mi hanno trasferito e mi hanno mandato a Porto Torres. E non sei contento, sei più vicino, poi Olbia. Già lo sai che è tenta, che la città dell'amore. Purtroppo c'era urgenza a Porto Torres e mi hanno mandato a Porto Torres. Va per te, Claudio. Ehi, dai, io ne approfitto del microfono, vi saluto tutti, vi auguro il buon proseguo di giornata, il buon proseguo di questo. Ciao Tonino e ciao Gianni, e eventuali ascoltoni, dai. Passo in QRT che mi allontano, sto facendo le prove e adesso mi allontano dalla radio. Ci sentiamo, ciao Gianni, quando ti fa piacere fammi un colpo di telefono. L'ho detto anche a Giuseppe, ma ci stanno problemi. Dai, ciao Tonino, a presto, riprendi tu Gianni. Ehi, Acqua, non cazzi un attimo, non lasciare stasera che c'è festa per Dottore Salmolo. Dove, a Porto Torres c'è festa stasera? Ehi, se cantano, fanno... Con cui io si ritorire? Pensano che se non parlano in Porto Torres perché sono al molo, la mia collega c'è... Ci sono canti, suonano, eccetera, eccetera. Non so già, se volete scendere per me non ci sono problemi. No, io devo uscire con l'Iliana, però te lo sto dicendo, se ti interessa, devo uscire con la famiglia. Noi andiamo prima in Piazza Cova a fare una rustica, poi ce ne andremo al Ghero, a Porto, non lo so, scenderò magari lì. Già, no. A fare tardi così no, perché domani mattina mi devo alzare presto e c'è il traghetto alle 8, capito? E se no rimaniamo a terra, siamo una grassetta e andiamo a passare la giornata lì. Vabbè, dai, vediamo un po', adesso mi organizzo, vediamo un pochino. Va bene, ci sentiamo, ciao Tonino, ciao Gianni e ciao a tutti. Buon divertimento alle prossime occasioni. Tonino, per te il microfono. Grazie, Clara. Buon correnti allora, buon tutto. Ci ascoltiamo alle prossime. E buona festicciola a parte domani. Vai, va a te, Gianni. Ciao Claudio, vai, buona serata, ci sentiamo. Avanti, Tonino, se mi ascolti ancora, io sono quasi arrivato a Roma a fare una bella luce, che c'è un caldo da crepare. Va passaggio ti ho copiato abbastanza d'occa. Ma nel mese quasi, sono attraversato nel mese quasi, tu probabilmente è tappato per la calzona, io sono con un semino di 85 centimetri. Non so come ascolti a me lì, quelle in mezzo alle foreste. Ma te li ascolto bene, Santiago Mondo, là. Già va bene lo stesso. No, ti ascolto bene, questo passaggio, questi passaggi che hai fatto ultimamente ti hanno dato abbastanza bene. Ciao, ciao.